Tutti i capi dell'esercito con Giovanni, figlio di Careca, Azaria, figlio di Osea, e tutto il popolo, dal grande al piccolo, si presentarono e dissero al profeta Geremia: accogli la nostra supplica e intercedi per noi presso il Signore, Dio tuo, in favore di tutto questo resto, perché siamo rimasti pochi da tanti che eravamo, come i tuoi occhi possono constatare. Il Signore tuo Dio ci indichi la strada per dove dobbiamo camminare e ciò che dobbiamo fare. Il profeta Geremia disse loro: intendo, ecco, io intercedo presso il Signore vostro Dio secondo la vostra richiesta, e qualsiasi cosa il Signore risponderà nei vostri riguardi, io ve la comunicherò. Non vi nasconderò alcuna parola. Essi risposero a Geremia: il Signore sia tra noi come testimone veritiero e accreditato, se non agiremo perfettamente secondo ogni parola che ti invierà il Signore, Dio tuo, a nostro riguardo. Sia in bene, sia in male, ascolteremo la voce del Signore, Dio nostro, al quale noi ti inviamo affinché ci benefichi, perché vogliamo ascoltare la voce del Signore, Dio nostro. Al termine di 10 giorni, la parola del Signore fu rivolta a Geremia. Egli allora chiamò Giovanni, figlio di Careca, tutti i principi dell'esercito che erano con lui e tutto il popolo dal piccolo al grande, e disse loro: così dice il Signore, Dio di Israele, al quale mi avete inviato per presentare la vostra supplica. Se persistete a restare in questo paese, allora io vi costruirò e non vi distruggerò, vi pianterò e non vi strapperò, perché mi pento della sventura che io vi ho arrecato. Non abbiate timore del re di Babilonia, dinanzi al quale avete avuto paura. Non abbiate paura di lui, oracolo del Signore, perché io sarò con voi per salvarvi e per liberarvi dalle sue mani. Io lo muoverò a pietà nei vostri riguardi, perché abbia compassione di voi e vi faccia restare nella vostra terra. Ma se voi, non dando ascolto alla voce del Signore Dio vostro, dite: non vogliamo restare in questo paese, e direte: no, vogliamo andare nel paese di Egitto, dove non vedremo più guerra, né udiremo squillo di tromba, né patiremo più la fame, là vogliamo abitare, allora, o resto di Giuda, ascoltate la parola del Signore. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: se voi veramente avete deciso di andare in Egitto e vi andate per dimorarvi, la spada che voi temete vi raggiungerà là, nel paese di Egitto, e la fame della quale voi vi spaventate là in Egitto vi si attaccherà, e là morrete. Avverrà dunque che tutti gli uomini che hanno deciso di andare in Egitto per dimorarvi morranno di spada, di fame e di peste, e non avranno né superstite né scampato dalla sventura che io farò arrivare contro di loro. Sì, così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: come si è rovesciata la mia ira e il mio sdegno contro gli abitanti di Gerusalemme, così si rovescerà il mio sdegno contro di voi se andrete in Egitto. Sarete oggetto d'esecrazione, orrore, maledizione e vergogna, e non vedrete più questo luogo. Il Signore ha parlato contro di voi, o resto di Giuda: non andate in Egitto. Sappiate bene, io oggi ho testimoniato contro di voi. Sì, voi avete messo in ballo la vostra vita quando voi mi avete inviato presso il Signore Dio vostro dicendo: intercedi per noi presso il Signore Dio nostro, e tutto ciò che dirà il Signore Dio nostro riferiscilo a noi fedelmente e noi l'eseguiremo. Io dunque oggi ve lo riferisco, ma voi non date ascolto alla voce del Signore Dio vostro e a tutto ciò per il quale mi ha inviato a voi. Or dunque sappiatelo bene, morrete di spada, di fame e di peste nel luogo dove voi desiderate andare per dimorarvi.